molto problematico nel momento in cui non prevede più che l'inidoneità alla guida per stato alterato di coscienza venga verificata al momento in cui uno sta guidando, ma con i test che appunto salivari, urinari o anche del sangue che a cui verranno sottoposti gli automobilisti, sarà possibile sanzionarli anche se questo consumo è avvenuto ore precedenti, giorni precedenti, addirittura per quel che riguarda alcune sostanze, in particolare la cannabis, settimane prima di mettersi alla guida. E questo ovviamente è problematico nel momento in cui di fatto rientra dalla finestra la penalizzazione del consumo di sostanze, perché ricordiamo si rischia il carcere, previsione dell'arresto per queste condotte. Rientra appunto dalla finestra ciò che era uscito col referendum del 93, ovvero la penalizzazione del consumo di sostanze. E poi c'è anche come norma la sospensione della patente per 3 anni. Sì, c'è la sospensione della patente e addirittura il ritiro della patente in caso di conferma alla commissione medica della positività, che appunto per la cannabis può durare anche per un mese. Il ritiro della patente significa addirittura il dover rifare gli esami e quindi per riottenere la patente. La sospensione della patente è anche una delle sanzioni amministrative ancora previste per il consumo di sostanze, che però è solo eventuale, ovvero quando una persona viene trovata in possesso di sostanze per uso personale viene inviata al prefetto a un colloquio, di solito con un funzionario della prefettura, e a seguito di questo può essere richiamata, può essere inviata al SERD per fare dei percorsi, diciamo, di prevenzione e cura, oppure può essere anche sanzionata. In questo caso, nel caso del nuovo codice della strada, la sanzione invece è automatica e potenzialmente ad alzo zero, perché fra l'altro colpirebbe tutti coloro che consumano sostanze psicoattive, non solo quelli che consumano cannabis o cocaina o eroina, diciamo, per uso non medico, ma anche coloro che la usano per uso medico. Coloro che hanno dei cerotti, ad esempio, per il dolore della schiena a base di oppioidi, rischiano di risultare positivi. Vasco Rossi sottolineava come paradossalmente anche chi respira fumo passivo, ad esempio di cannabis, potrebbe in un qualche modo essere colpito, però al di là di questo, proprio questa latenza anche di tempi porta questa misura a non avere basi scientifiche. Non ha basi scientifiche anche perché gli stessi test salivari che verranno utilizzati hanno un margine di errore ampissimo. Noi avevamo dei dati riferiti a qualche anno fa rispetto ai test fatti da carabinieri e polizia su strada, e almeno un quarto dei positivi si rilevava poi un falso positivo. Si tratta di un errore, diciamo, di un margine di errore un po' troppo ampio per far partire un processo penale e appunto la sospensione, addirittura il ritiro della patente. La cosa che fra l'altro è da sottolineare, il dialogo, diciamo così, tra Vasco Rossi e Salvini, è il fatto che Salvini omette sempre di dire una cosa, ovvero evoca ovviamente la tragedia di fronte alla quale ci si trova quando una persona che ha usato sostanze ha investito, ucciso o in qualche altro modo ferito un'altra persona, dimentica però sempre di dire che questi casi sono molto molto limitati. Cioè, noi stiamo parlando del neanche il 3% degli incidenti con vittime o feriti in Italia in cui uno dei guidatori è stato trovato positivo alle sostanze. Fatto test che in caso di vittima e di ferito viene effettuato in automatico. Questo significa che stiamo parlando proprio di una delle cause marginali dell'incidentalità stradale. Fra l'altro nemmeno c'è prova di causalità, nel senso che non è detto che sia quello che ha causato l'incidente che fosse positivo, e non è detto che fosse stata la positività a generare poi l'incidente, perché sappiamo che le cause sono molte altre, e in particolare la distrazione al volante. Quindi insomma una misura ideologica. Assolutamente ideologica e utilizzata per i problemi di un governo che non riesce a portare a casa la finanziaria, ha bisogno in qualche modo di mettersi delle medagliette al petto anche nei confronti di battaglie, di guerre che non hanno motivo di esistere. Pensiamo solo che sulla questione del mettersi alla guida in stato alterato, che è un comportamento rischioso che non va fatto né per consumo di sostanze illegali né con consumo di sostanze legali come l'alcol, ma anche, per intenderci, anche in uno stato di agitazione psicologica non va fatto. Ebbene, laddove la cannabis ad esempio è stata legalizzata, questi comportamenti diminuiscono fra i consumatori, perché i consumatori sono informati meglio, in modo più libero e più chiaro, e pongono tema della sicurezza fra le loro scelte di consumo. Questo non può avvenire oggi, anzi paradossalmente potrebbe addirittura peggiorare, perché se comunque uno rischia di ritirare la patente anche se non ha fumato immediatamente prima alla guida, tanto vale fumare, purtroppo potrebbe anche esserci questo ragionamento. Sembra appunto un approccio al solito ideologico e che omette di considerare quelli che sono i dati reali dell'incidentalità stradale.